Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Where are you boys from in the world? Alabama, sir. You twins? No, we are not relations, sir. As a barrow in the marketplace, Molly is the singer in a band. Desmond said to Molly, girl, I like your face, and Molly said this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Bra, la, how the life goes on. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Bra, la, how the life goes on. Desmond takes a trolley to the general store, buys a 30 car, I got the ring. Takes it back to Molly waiting at the door, and as he give it to her, then she begins to sing. Oh, blah, oh, blah, blah, life goes on, blah, la, la, how the life goes on. Oh, blah, oh, blah, blah, life goes on. Italia a chiudere e ad aprire rispettivamente la prima e la seconda parte di questo volume numero 2 di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. A chiudere con Giuliano Dottori, che era veramente da un po' di tempo che non ci ascoltavamo con Alibi ed oggi abbiamo rimediato. Ad aprire invece i Mariposa con un brano che sicuramente già conoscete, perlomeno voi che ascoltate Eclettica da anni. È uscito un nuovo disco da parte dei Mariposa intitolato Best Company, non è nient'altro che una compilation di cover come quella dei Beatles che già ci siamo ascoltati e altre cover come Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, Fabrizio De André, gli Stormy Six, i Gong oppure anche gli After Hours, una cover che è più divertente che altro. dove Male di miele viene cantata dalla voce di una bambina. Sicuramente avremo modo di tornare su questo disco in futuro. A proposito di novità a tutti gli effetti, quindi non di compilation di brani registrati negli anni, parleremo di novità effettivamente dal 4 di giugno, quando sarà disponibile nei negozi il nuovo di Xavier Rudd. Better People è il titolo del brano, estratto da quell'album, che avrà come titolo a sua volta White Moth. People say in Wales and giving your thanks to our seas, my respect to the ones in the forest standing up for our old trees. Them giving food to the hungry again, hope to the needy again, life to a baby again, careful free, cause there is freedom around us. We have everything we need, and I will care for you, cause you care for me, and we all have opinions. Some of them get through, but there's better people with more good to do. Message, or just some words from my heart. My respect to the ones making changes for other lives. They'll give their own, like giving food to the hungry again, hope to the needy again, life to a baby, giving care for free, cause there is freedom around us. We have everything we need, and I will care for you, cause you care for me. Opinions. Some of them get through, but there's better people with more good to do, good to do. Well, our world, it keeps spinning round and round it goes. Human nature keeps spreading its disease, and our children keep growing up with what they know from what we teach. Of the time we have and the lives that our children will need, as they can only keep growing up with what they know and what we teach and what they see. Like giving food to the hungry, giving hope to the needy, giving life to a baby, giving care for free, cause there is freedom around us. We have everything we need, and I will care for you, cause you care. Some of them get through, but there's better people with more good to do, good to do. Oh, good to do. Ehi Fede, chiese Danilo, perché proprio Mitote con la fama che ha? Mitote è un esperimento governativo di clonazione terrestre interrotto nel 2022. Dicono che sia tale e quale alla Terra 1500 anni fa. Niente cemento, niente case né strade, solo aria, vegetazione, animali e montagne, soltanto natura, insomma. Sì, continuò Roby, si dice anche che da 6 anni nessuno voglia più sbarcare lì. Vi ricordate gli ultimi che ci passarono 20 giorni? Quando tornarono erano fuori di testa. Deliravano su mostri che divoravano i pensieri e facevano discorsi assurdi sulle immagini da eliminare. È vero, concluse Antonio. Atterrarono su Mitote per un guasto allo shuttle e furono ritrovati dalla corporazione più di 2 settimane dopo. Uno di loro sragionò per settimane, parlava di come spostare il punto d'unione e di come uccidere l'ego per sopravvivere. Gli altri erano sotto shock. Non si capì granché di quello che era successo, ma qualche mese dopo Mitote fu dichiarato off limits. Restammo in silenzio qualche secondo, cercando forse di capire in cosa ci stessimo imbarcando, quando Antonio, con aria sorniona, annunciò: «La password l'ho trovata, ho già prenotato i biglietti e pagato, per modo di dire, si intende. 5 biglietti per Frieden. Da lì ho noleggiato uno shuttle charter con autista che ci porterà a destinazione per tornare a prenderci 16 giorni dopo». È stato difficile trovare un'agenzia che accettasse il nostro itinerario. Sembrano tutte molto superstiziose al riguardo. solo una ha accettato, la Grateful Space Line. Non vi assicuro la serietà. Perfetto, ragazzi, continuai. Allora ci vediamo questa sera al Blues House per gli ultimi preparativi e l'annessa ciucca di inizio vacanza, intesi? Certamente. Ciao, Ale. Questo era ancora l'incipit di Mitote di Patrizio Pino. Soul OD Green. Try and keep your feet dry. When we're out humping, I want you boys to remember to change your socks whenever we stop. Me calling will eat a grunt's feet right off his legs. And swallows me. possession of me. It carries me out to the sea and swallows me. You breathe in, breathe into me. Molto, molto d'atmosfera questa Breathe, estratta dall'ultimo dei The Cinematic Orchestra dal titolo Ma Fleur, appena ascoltata all'interno di Eclettica. E si prosegue invece con un LP che di tanto in tanto ci ascoltiamo, e sembra ormai evidente che la mia scelta vada a privilegiare delle tante collaborazioni all'interno di questo disco quella con i Mars Volta. Infatti stiamo parlando di I'll Sleep When You're Dead, il nuovo album di Jamie Mellin, artista di pelle bianca di New York, che si presenta però con lo pseudonimo di LP, un disco hip hop in cui ci sono altre collaborazioni che abbiamo avuto anche occasione di sentire, come per esempio quella con Trent Reznor o quella con Cat Power, ma è evidente, come già vi dicevo prima, qual è la mia scelta, qual è la mia preferenza. Do you think that if you were falling in space that you would slow down after a while or go faster and faster? Faster and faster. For a long time you wouldn't feel anything. Then you burst into fire. Forever. And the angels wouldn't help you. Cause they've all gone away. Wait. bumped into this kid I knew. He often had walked strange, so I ignored the blood on his laces so this cat could save face. The dunks and the gay stayed in a all gray haze, and a lump in his pocket talked to the ox that he clutched safe. So I saluted him there, waiting for the aim, trapped in an empty platform without the option to escape. Gave him a standing, yo, what up, man, how you landing? And the hypnotized response was no surprise. I maintain. Yeah, we all do, that's a standardized refrain, but also really real, man, good to see you. Really, what the dilly deal? Oops, boss screwed the pooch, that's too much, knew the truth. On the train now, a caboose, in his brain now, no recluse. 80 blocks to uptown spot, destination vocal booth. Metro card like, you get what you pay for, stupid. No excuse. He pulled his hoodie off his cabbage, rugged practical. He began to fancy the words I mistakenly jostled loose. The stogie he brazenly lit where he sit, looked legit. But when the flame touched on the tip, I could smell it to another nit. He leaned his head back and inhaled the newbie dip and said the whole design got my mind crying. If I'm lying, I'm dying, shit. This is a sign of what you don't know, killing you. This is a sign of what you don't believe, still true. This is a sign of what you don't want, selling you. DPC, motherfucker, cop a filler too. This is a sign of what you don't know, killing you. This is a sign of what you don't believe, still true. This is a sign of what you don't want, selling you. Thank you. Blues House era una birreria del settimo livello, uno dei pochi posti dove si poteva sentire ancora della musica decente senza venir rimpinzati di video post-techno e drink assurdi. Mastro Bla, il proprietario, un folle scatenato con un'enorme cresta bionda, lottava tutti i giorni la tecnocrazia dilagante aiutato da tre splendide fanciulle. Quel posto era la nostra scialuppa di salvataggio, la nostra isola deserta carica di frutta dove naufragavamo ad intervalli pressoché regolari, la nostra colonna sonora. Ero seduto ad un tavolo sul fondo del locale, il posto migliore dove la musica non era che un lieto sottofondo ai miei pensieri. Stavo ascoltando You Can't Always Get What You Want. La mia Guinness sintetica teneva compagnia ad un vetro vuoto della medesima. Ero lì da 15 minuti e bevevo di gusto, come sempre del resto, ma questa volta avevo una strana sensazione, come se qualcosa dentro di me fosse in procinto di cambiare. Captavo strane energie, qualcosa di molto potente che non sapevo come controllare. Sicuramente l'agitazione per la partenza giocava un ruolo fondamentale, ma sotto c'era dell'altro, tanto più che non pensai nemmeno a come sarebbe potuta essere la birra vera, cosa che facevo ogni qualvolta mi prestavo a bere. L'idea di visitare un pianeta come il nostro, prima che la cosiddetta civiltà lo rendesse invivibile, mi eccitava e mi spaventava allo stesso tempo. Nessuno di noi era mai stato su un monte o su un prato che non fosse simulato sotto il livello del plastico, così chiamavamo la superficie dove ovviamente non eravamo mai stati a causa dell'altissima temperatura. Praticamente non avevamo mai vissuto. Le generazioni future si sarebbero abituate, non avevo dubbi. Il genere umano è strano, pensavo. Sorvola tutto adattandosi alle situazioni più allucinanti, ma noi in quel momento non potevamo proprio. Facevamo parte della generazione di passaggio, o almeno questo era quello che credevamo. La generazione più sfortunata, la generazione rinchiusa tra due fuochi. Da una parte i vecchi pazzi alcolizzati che tutte le sere urlavano e piangevano sulle nostre spalle alla ricerca di un altro bicchiere del fiore dell'oblio, impegnando in cambio le loro esperienze e rimpiangendo d'essere sopravvissuti alla grande esplosione. Dall'altra i pazzi, quelli veri, l'immensa marea di persone vaganti come automi da un punto all'altro di sterili corridoi colorati alla ricerca di un qualcosa che certamente non avrebbero trovato sottoterra. Questo era ancora l'incipit di Mitote di Patrizio Pinna. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 35, volume numero 2. Indice: Soul Seppi, Cajun Dance Party, Bishop Allen, Murder by Death, Giuliano Dottori, Mariposa, Xavier Rudd, Merci Miss Monroe, The Cinematic Orchestra, LP con i Mars Volta.